infatti adesso c'è anche la regista che ci sta aspettando. Vabbè, allora intanto presentiamola. Intanto presentiamola. Vai, presentacela. Hello. Let's introduce yourself. Yeah, I'm the director of a bunch of Kunst, a film about Sleaford Mods, a British punk band that's screening at Kinodromo tonight. Sono la regista del film A Bunch of Kunst sugli Sleaford Mods, una punk band inglese. E basta. E questa è la tua opera prima documentaristica, giusto? Hai girato dei corti prima. Com'è venuta l'idea di questo documentario? Da cosa è nata? This is your first long movie. But how did it come? Did you pass through short movie? What's the history? Yeah, so I'm a music journalist back home in Germany, and I'm working for German TV. So I was lucky enough to interview them in 2014, and that's when at the beginning of their career when the idea for the film came about, and that's how it all started after a drunken night in Nottingham. So yeah, that was the idea. Sono una specialista di musica, ho un programma su una TV tedesca e ho avuto la fortuna di intervistarli nel 2014 e da lì è nata l'idea di fare questo documentario ubriaca una notte a Nottingham. Ve l'avevo detto che Alessio è bravo, ma molto molto modesto. E avevi una sceneggiatura all'inizio o è un documentario che è venuto in itinere? Hai semplicemente seguito il gruppo? Did you have a script or it was a work in progress? It was work in progress. We had a script at the beginning, but then we got rid of it straight away because it didn't work out. So, and obviously things really spiraled out of control and they got bigger and bigger. And that's when we got rid of the script and just took it from there and just tried to be the fly on the wall as they became bigger and sort of went on their journey with them. E all'inizio c'era uno script, ma a un certo punto lo abbiamo gettato perché le cose hanno preso tutta un'altra strada, tutto è diventato incasinato e quindi è diventato subito un work in progress. Ma come sta andando la distribuzione? Ci sarà l'opportunità di vedere il film da qualche altra parte in Italia? Perché Radio Pratello non è ascoltata solo da bolognesi, quindi magari qualcuno si troverà il film nella propria città e avrà l'opportunità di andarlo a vedere. How's going the distribution? I mean, is going to be screened somewhere else in Italy because this radio is not listened just by people from Bologna, so maybe some of the listener can watch it somewhere else. So we already had a few screenings in Italy last year and the year before, but now we've released the DVD, which is available in your local record store, and then also on the all the major digital platforms you can stream the film. Abbiamo già proiettato il film in Italia un anno fa e anche qualche altra volta tempo addietro, però adesso sta uscendo il DVD e lo potete trovare sicuramente nel vostro negozio di dischi di fiducia e online sulle piattaforme. Ci vuoi dire qualcosa dei tuoi prossimi progetti? Perché questo documentario ci è piaciuto tantissimo e siamo curiosi di sapere come andrà avanti la tua carriera. Would you like to say? Have you understand? No. Okay. Would you like to say to us more about your next projects because we really enjoy your documentary. We're very curious. I'm not allowed to talk about it yet, but hopefully I will do another music documentary in the near future, and then so that's kind of in development right now, and also we're all back at our day jobs now for now to earn some more money and hopefully make more films after this one. Non posso dire molto, però sì, c'è in cantiere, c'è l'idea di fare un altro film un altro documentario musicale, e sarebbe molto bello che questo potesse diventare un altro modo per vivere. Io avevo un'ultima curiosità, poi ti lascerei andare a mangiare, credo, una fantastica pizza italiana, se ben conosco Serra, ma ci puoi spiegare un pochino il nome del gruppo e qual è il loro legame con la cultura mod, se hai avuto l'opportunità di approfondirlo? This is the last question, then you can go and have your dinner with an Italian pizza. And the question is this, the name of the band, Silly for Mods, has a link with mod culture, and in which way? Because me and Maddalena were thinking about mod culture, and we think about Northern Soul, and this is more like punk, you know. So we were curious about this link. Yeah, I think Jason, the singer in the band, he's really into mod culture, and that's how the name came about. But I think it's also he told me once that he just thought it sounds great, but he's also definitely into Northern Soul and that mod culture thing, and he wanted to give it a bit of a shake up and an update. Jason, il cantante, è molto, molto dentro la cultura mod, e sebbene lui abbia detto che il nome semplicemente suonasse bene, e io credo che invece abbia voluto portare questo importante movimento inglese, tutto questo retaggio culturale con sé, anche tutto il ritmo e anche un po' di Northern Soul. Allora direi che ti ringraziamo, Christine, per questa piccola intervista, e speriamo di vedere di nuovo il tuo film, che gli ascoltatori comprino il DVD e abbiano l'opportunità di vederlo, e speriamo di averli incuriositi con tutta questa serata dedicata. Buona serata, grazie mille ancora. Se vuoi salutare. Grazie.